sicuramente ci sono delle risorse che si possono utilizzare, si possono scovare e si possono utilizzare nella direzione giusta, ma quello che conta è la voglia di impegnarsi. Ci sono degli obiettivi che si possono raggiungere facilmente. Ho avuto occasione di visitare ad esempio negli Stati Uniti addirittura costruzioni, villaggi interi costruiti con consumo energetico zero, e questo è la direzione, questa è la direzione su cui noi dobbiamo andare.